Capitolo 101. Fedra e Ippolito. Dopo le sue nozze con Fedra, Teseo mandò il figlio bastardo Ippolito da Pitteo, che lo adottò come suo erede al trono di Trezene. In tal modo Ippolito non avrebbe avuto ragione di contestare il trono di Atene ai suoi legittimi fratelli, Acamante e Demofoonte, figli di Fedra. Ippolito, che aveva ereditato da sua madre Antiope un'accesa devozione per la casta Artemide, innalzò alla dea un nuovo tempio in Trezene, non lontano dal teatro, a che Afrodite, ben decisa a punire ciò che considerava un insulto a lei diretto, fece in modo che, mentre Ippolito partecipava ai misteri eleusini, Fedra si innamorasse perdutamente di lui. Ippolito indossava una bianca veste, aveva una corona in capo e, benché la sua espressione fosse dura e arcigna, a Fedra egli apparve stupendo e austero. Poiché a quell'epoca Teseo si trovava in Tessaglia con Pirito o forse nel Tartaro, Fedra seguì Ippolito a Trezene. Colà essa edificò il tempio ad Afrodite che spia, sovrastante la palestra, e ogni giorno, senza essere notata, poteva osservare Ippolito che, completamente nudo, si esercitava nella corsa, nel salto e nella lotta. Un antico albero di mirto sorge nel recinto del tempio e Fedra, nel furore dell'inane passione, si accaniva contro le sue fronde, servendosi di uno spillone ingioiellato. Ancora oggi si vedono i fori dello spillone nelle foglie. In seguito, quando Ippolito si recò ad assistere alle Panatenee e alloggiò nel palazzo di Teseo, Fedra lo spiò dal tempio di Afrodite sull'Acropoli. Fedra non svelò ad alcuno il suo incestuoso desiderio, ma toccava appena il cibo, dormiva male, tanto si indebolì che la vecchia nutrice, infine, indovinò la verità e supplicò la regina di inviare una lettera a Ippolito. Fedra seguì il consiglio e scrisse confessando il proprio amore, disse di essere ormai convertita al culto di Artemide, cui aveva riconsacrato i simulacri lignei portati da Creta. Ippolito avrebbe accettato di recarsi con lei a una partita di caccia? «Noi donne della real casa cretese», continuava la lettera, «siamo forse per destino condannate al disonore. Pensa a mia nonna Europa, a mia madre Pasifae e infine a mia sorella Arianna. Ah, infelice Arianna, abbandonata dal padre tuo, l'infedele Teseo, che in seguito uccise la tua real madre Antiope. Perché le furie non punirono la tua filiale indifferenza alla sua triste sorte? E forse un giorno ucciderà me pure». Conto su di te per vendicarti di Teseo, rendendo omaggio ad Afrodite. Perché non ce ne andiamo a vivere assieme, per qualche tempo almeno, servendoci come pretesto della battuta di caccia? Nessuno sospetterà dei nostri veri sentimenti. Già alloggiamo sotto lo stesso tetto, e il nostro affetto sarà considerato innocente o persino encomiabile. Ippolito bruciò inorridito quella lettera e si recò nella camera di Fedra, dando aspra voce ai suoi rimproveri. Fedra allora si lacerò le vesti, spalancò le porte e gridò «Aiuto! Aiuto! Sono stata violentata!» e si impiccò a una trave del soffitto, lasciando un biglietto che accusava Ippolito di orrendi crimini. Teseo, ricevendo tale biglietto, maledisse Ippolito e diede ordine affinché il giovane lasciasse immediatamente Atene e mai più vi ritornasse. Più tardi si rammentò dei tre desideri che il padre suo, Posidone, aveva promesso di esaudire e pregò perché Ippolito morisse quel giorno stesso. «Padre», supplicò, «fa che una belva si pari dinanzi a Ippolito sulla strada di Trezene». Ippolito aveva abbandonato Atene in gran fretta. Mentre correva lungo la parte più stretta dell'istmo un'enorme ondata, più alta della roccia Moluride, si abbatté con un boato sulla spiaggia e dalla sua spuma emerse una grande foca maschio, come altri dicono, un toro bianco. I quattro cavalli di Ippolito fecero uno scarto verso la parte opposta della strada, pazzi di terrore, ma Ippolito, abile e auriga qual era, impedì che precipitassero nel baratro sottostante. Tuttavia gli animali si lanciarono in un galoppo furioso. Non lontano dal santuario di Artemide Saronide si trova un olivo selvatico, chiamato il Racos contorto, poiché Racos è il termine trezenio per indicare l'oleastro, e le redini di Ippolito si impigliarono nei rami di quest'albero. Il suo cocchio si infranse su un mucchio di pietre, e Ippolito, imprigionato dal groviglio delle redini, andò a sbattere prima contro il tronco, poi contro le pietre, e infine fu calpestato a morte dai cavalli, mentre la foca pareva svanire nel nulla. Taluni ritengono improbabile che Artemide in quel momento rivelasse la verità a Tesio e lo trasportasse in un batter d'occhio a Tregene, dove egli ebbe appena il tempo di riconciliarsi con il figlio morente. È accertato tuttavia che la dea ordinò ai Trezeni di tributare a Ippolito onori divini e da quel giorno tutte le spose trezenie si tagliano una ciocca di capelli e gliela offrono. Fu Diomede che consacrò l'antico tempio e simulacro di Ippolito a Trezene e che per il primo gli offrì un sacrificio annuale. Nel recinto di questo tempio, presso il mirto dalle foglie forate, si vedono le tombe di Fedra e di Ippolito, quest'ultima contrassegnata da un tumulo di terra. I Trezeni negano che Ippolito fosse calpestato a morte dai cavalli e che egli giaccia sepolto nel recinto del tempio. Ne vogliono rivelare dove si trovi la sua tomba. Tuttavia sostengono che gli dei ne posero l'immagine fra gli astri come costellazione dell'auriga. Gli ateniesi innalzarono un tumulo in memoria di Ippolito presso il tempio di Temi, poiché la sua morte era stata provocata dalle maledizioni. Taluni dicono che Tesio, processato per omicidio, fu giudicato colpevole, colpito da ostracismo ed esiliato a Sciro, dove chiuse la sua vita nel dolore e nella vergogna. Ma comunemente si ritiene che egli cadde in disgrazia perché tentò di violentare Persefone. L'ombra di Ippolito discese al Tartaro e Artemide, indignata, chiese ad Asclepio di risuscitare il suo corpo. Asclepio aprì il suo stipo d'avorio e ne estrasse l'erba che aveva risuscitato il cretese Glauco. Per tre volte posò l'erba sul corpo di Ippolito, pronunciando frasi magiche, e la terza volta il cadavere alzò la testa dal suolo. Ma delle tre Moire, irati per questo attentato ai loro privilegi, indussero Zeus a uccidere Asclepio con la sua folgore. I latini narrano che Artemide avvolse allora Ippolito in una fitta nube e gli fece assumere le sembianze di un vecchio. Dopo aver esitato tra Delo e Creta, decise di nasconderlo nel bosco a lei sacro ad Ariccia, in Italia. Colà, col consenso di Artemide, Ippolito sposò la ninfa Egeria. Egli vive ancora presso il lago, tra cupi boschi di querce che si affacciano su inaccessibili burroni. Affinché nulla gli ricordasse la sua morte, Artemide gli diede il nuovo nome di Virbio, che significa vir bis, due volte uomo, e nessun cavallo può avvicinarlo. Soltanto gli schiavi fuggiaschi possono divenire sacerdoti di Artemide Aricina. Nel bosco a lei sacro sorge un'antica quercia, i cui rami non si debbono spezzare, ma qualora uno schiavo osi compiere questo gesto, il sacerdote, che ha a sua volta ucciso il proprio predecessore e vive in un costante timore della morte, deve duellare con lui, spada contro spada, per la carica sacerdotale. Gli Arici dicono che Tesio supplicò Ippolito di rimanere con lui ad Atene, ma che Ippolito rifiutò. Una tavoletta nel santuario di Asclepio a Epidauro ricorda che Ippolito gli consacrò 20 cavalli in segno di gratitudine per averlo risuscitato. L'episodio dell'amore incestuoso di Fedra per Ippolito, come l'episodio dell'amore adulterino della moglie di Putifarre per Giuseppe, è ricalcato o dalla egiziana storia dei due fratelli o da una comune fonte cananea. La conclusione è poi stata tratta dalla solita raffigurazione che illustra la morte del sacro re travolto dai cavalli al termine del suo regno. Se come nell'antica Irlanda il profetico rombo del tempestoso mare di novembre annunciava al re che la sua ora stava per scoccare, è possibile che tale avvertimento fosse simboleggiato da un toro o da una foca ritti a bocca spalancata sulla cresta di un'onda. Le redini di Ippolito si impigliarono senza dubbio nel mirto e non nel sinistro oleastro che soltanto più tardi fu associato con la morte. Un mirto infatti cresceva presso la sua tomba eroica ed era famoso per le sue foglie sforacchiate. Il mirto simboleggiava l'ultimo mese del regno del re, come risulta dalla storia di Enomao, mentre l'oleastro simboleggiava il primo mese del regno del successore. Virbis è un'errata interpretazione di Virbio, Virbius, che pare derivasse dal greco Hierovios, santa vita. L'H infatti diventava spesso una V, come Inestia e Vesta, Esperos e Vesper. Nel Golden Bough, Sir James Frazer ha dimostrato che il ramo così gelosamente custodito dai sacerdoti era il vischio, ed è probabile che Glauco, figlio di Minosse, che è stato confuso con Glauco, figlio di Sisifo, fosse risuscitato appunto col vischio. Benché il culto pre-ellenico del vischio fosse stato soppresso in Grecia, è possibile che un gruppo di sacerdoti fuggiti dall'istmo l'avesse importato ad Ariccia. Il nome di Egeria dimostra che essa era una dea della morte che viveva in un boschetto di pioppi bianchi. L'offerta di una ciocca di capelli a Ippolito fu forse una innovazione patriarcale e aveva come scopo di privare le donne del magico potere insito nei capelli. Anche le donne maomettane debbono rasarsi il capo prima delle nozze. Il segreto che avvolgeva la tomba di Ippolito ha un parallelo nelle leggende di Sisifo e di Neleo. Probabilmente egli era stato sepolto in un punto strategico dell'istmo.